la sua vision, qual dolce sorriso che più lieta fa quanto brillar la nostra gioventù. Ma fu molto breve in me la dolcezza di quel ver, sparì quel bel sogno d'or, lasciando in me il dolor. Fu quella vera, sono proprio tristi. La gioventù passata sarà, rimpianto mi resta solo, sì, rimpianto amaro ed uore nel cor. Sul mio cammino